Bentornate, bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio, la forse 59esima, ma non sono sicuro. Ma lasciamo perdere. Oggi siamo tantissimi qua per tenerci caldo nella Wombat regia invernale. Siberia. Abbiamo ben tre voci al microfono, una la conoscete già, è quella Ciao. Del socio solito, e poi abbiamo un socio nuovo. Buonasera, buonasera, sono Roscio, anche così detto, è entrato adesso nel Wombat. Meno 30, ma comunque caldi e pronti. Sì. Carico, eh? No, infatti lui l'abbiamo preso apposta perché noi abbiamo una certa anzianità che sì. L'inverno si fa sentire, diventiamo personaggi tristi e lugubri e quindi lui l'abbiamo preso direttamente da un luogo di sole e trasportato qua a forza. Quando esaurisce la sua carica lo gettiamo nel cassonetto. Umbria, luogo di sole. Luogo di sole, che ti frega. No, infatti. Dai, iniziamo. Allora, quest'oggi, siccome siamo in tre, abbiamo tre argomenti. È bellissimo, di solito ero da solo e facevo cinque argomenti. Ora, per fortuna, siamo in tre e ci sono tre argomenti. Io volevo aprire con l'argomento che mi ero preparato per la settimana scorsa, sul quale pensavo ci fossero delle cose nuove, invece no, sono sempre quelle, e quindi lo dico paro, però... Ho esteso il mio ragionamento e sostanzialmente ho letto la settimana scorsa, mi è uscito anche su tutti i giornali e i quotidiani di tutto il mondo, che la National Security Agency ha segnalato a Microsoft un bug di Windows 10. Non una cavolata, nel senso che è una roba che pertiene... Senti come sono dotto, pertiene alla libreria Crypt32.dll, che trattasi di libreria... utilizzata ad esempio per la validazione dei certificati e quindi anche per tutte quelle attività tipo la validazione dei siti di HTTPS, ma anche la validazione delle sorgenti del software, no? Che quindi se è firmato ad esempio dalla Microsoft può essere installato senza troppe menate. Se non così ti viene tutti fuori le cose fino ad arrivare proprio che non si installa, e cioè le cose sarebbero le finestrelle oppure non si installa punto. Quindi se te puoi far loccare questa cosa in qualche modo, sostanzialmente hai una via abbastanza spianata, se c'hai certi mezzi, ma oppure se sei bravo a intortare le persone, alla remote code execution. E quindi era una roba... La cosa interessante non è tanto che ci sia la falla, che chi se ne frega, ma è interessante il fatto che la National Security Agency, al posto di fare come aveva fatto per Eternal Blue, che era quel bug che era uscito ad opera di un leak, no? Mm-hmm. Cioè nel senso che questo gruppo che non si sapeva bene chi fossero fosse. Questi shadow broker che a un certo punto hanno rilasciato del software, e in mezzo c'era anche questo Eternal Blue che poi è quello che ha dato vita a tutta la saga di WannaCry. Ok. Cioè tutta a quel ransomware lì che utilizzava questo bug che era che era degli americani sostanzialmente. Loro se lo sono tenuti e l'hanno usato loro per 5 anni e più, e poi a un certo punto è stato rilasciato ed è successo un casino. Probabilmente, credo, sia anche un'operazione che in qualche modo la National Security Agency sta compiendo di ripulitura della propria immagine. Perché ad esempio viene dopo che da un annetto hanno rilasciato ad esempio Ghidra, che era un altro strumento che abbiamo usato anche qua nel corso di reversing, appunto uno strumento che era citato nei leak pubblicati su Wikileaks, non mi ricordo qual era il nome di quella, diciamo, quella tranche di quella tranche di leak, però era comunque un software che era citato, e poi loro a un certo punto hanno detto vabbè, ma è open source, a noi che ci frega, lo rilasciamo. E quindi tendenzialmente mi sembrano delle operazioni di ripulitura dell'immagine, no? Oppure anche di considerazioni meramente tattiche, nel senso che Eternal Blue se lo sono tenuti per 5 anni, ma quando poi inizia a utilizzarlo qualcuno è successo un casino, forse hanno detto forse è meglio se non ce l'ha nessuno questo, capito? Perché era troppo un casino che ce l'avesse qualcuno, perché dice, se noi siamo zitti, ok, però non lo mettono a posto e quindi lo utilizzano anche quegli altri, se noi glielo diciamo facciamo sia bella figura un gioco da tavolo, sì sì. E quindi questi ragionano così e questa era la mia notiziola di oggi. Ora intervellerei in maniera precisa con della musica, in modo che facciamo proprio che ogni intervento mettiamo della musichina e sembriamo una trasmissione vera. Sperando di beccare la traccia, tra l'altro. Dai. No, non dire così. Sì, dai. Di solito no, ma succede. Dai, si capisce. Zombie no go turn unless you tell them to turn. Zombie no go think unless you tell them to think. Zombie. Tell them to go straight. Rajoro jara joro. No break, no jam, no sense. Rajoro jara joro. Tell them to go kill. Rajoro jara joro. No break, no jam, no sense. Rajoro jara joro. Tell them to go quench, na joro jara joro. No break, no jam, no sense, na joro jara joro. Go and kill, joro jara joro. Go and die, joro jara joro. Go and quench, joro jara joro. Put up all the verse, joro jara joro. Go and quench, joro jara joro. Go and kill, joro jara joro. Go and die, joro jara joro. Put up all the verse, joro jara joro. Go and die, joro jara joro. Go and quench, joro jara joro. E ora via la musichina, anche oggi ascoltiamo come l'altra volta Fela Kuti, perché questo è l'anno di Fela Kuti. Sì, sì, sì, sì, nel calendario penso di molte nazionalità asiatiche sia l'anno di Fela Kuti. Cioè, e te lo sapevi, certo, infatti l'ha scelto lui. E ci andiamo ad approcciare alla nuova voce con l'argomento succoso del giorno. Prego. Buonasera a tutti, allora grazie che intanto che mi avete accolto a Radio Wombat, grazie mille. E stasera volevo portare più che mai un bisogno che ho riscontrato stamattina proprio. Ero lì, cioè, era le 8 di mattina del lunedì, non potevo più sopportare nessuno e avevo un problema fondamentale. Fondamentalmente dovevo condividere lo schermo di un tablet oppure di uno smartphone Android attraverso il wireless. Cioè, una cosa semplicissima, niente, nessuna fantascienza. Cioè, siamo nell'epoca in cui abbiamo le macchine che sono autonome, i razzi che atterrano da soli e il deepfake di Ezio Greggio, cioè nel senso ormai siamo un po' troppo avanti. E a questo punto non pensavo di inciampare tra licenze oppure limiti imposti o cavo USB praticamente, almeno non fino al secondo caffè. Quindi semplicemente cercavo un software che mi permetteva di condividere questo schermo in maniera open source, free e in maniera facile. Non è stato così facile, diciamo. In poco tempo ero sommerso tra applicazioni free legate però all'USB o altrimenti applicazioni a pagamento o che necessitavano i permessi di root e quindi sbloccare il telefono, perdere la garanzia ed entrare in un ginepraio di procedure e cose fin troppo complicate per un utente normale. E a questo punto ho cercato, mi sono guardato intorno e ho detto: o vado ad aprire un VNC server attraverso Termux su un tablet Android, oppure vado a comprare un cavo USB lunghissimo e risolvo. Beh, 15 metri di cavo sono bastati, ma comunque non ero soddisfatto. Stavo cercando una soluzione, qualcosa che mi dasse un sistema custom che potevo gestire totalmente. E ho detto: perché non posso avere la libertà di Linux, ma sul mio telefono? Mi sono guardato intorno, ho soltanto Apple oppure Android. Ci sono delle cose di nicchia, ma fino a che punto? Sono andato a vedere praticamente che venerdì è finalmente partito il primo smartphone che monta nativamente Linux e che grazie a Ubuntu Touch riesce a fare delle chiamate. E parlo del PinePhone. Il PinePhone insieme anche all'IBM 5 sono delle prime applicazioni del Linux su un sistema portatile e alla portata anche di un utente medio. Ancora non in modo nativo e così, diciamo, performante come il mercato che abbiamo ora, ma è già un primo passo avanti. Diciamo che se vogliamo metterci su quella scena, su quel movimento che più open source e libero, abbiamo due possibilità: puntare all'hardware, quindi comprare un nuovissimo Librem 5, quindi effettivamente degli smartphone che montano Linux, o optare per dei sistemi operativi che ci permettono, non ROM di Android, ci permettono di avere un'esperienza simile. Diciamo che l'offerta migliore, le alternative migliori sono state quelle di Librem e PinePhone, perché permettono di avere dei kill switch che mi permettono di chiudere autonomamente, cioè manualmente e a livello proprio di alimentazione, quindi definitivo, Wi-Fi, cellular, oppure la rete dati e anche il GP. E anche il GPS, che a livello di privacy mi permettono di controllare effettivamente quali dati butto fuori e cosa butto fuori, e che è veramente tra le cose migliori. Nota molto interessante anche a livello di sistemi operativi, come abbiamo il Lineage OS oppure il Postmarket OS, che sono praticamente dei sistemi operativi che hanno come montati Linux. Abbiamo Pine con il Postmarket OS, oppure un'iniziativa nata fin da Nokia, che è per l'appunto il Sailfish OS, che ha anche un livello, diciamo, di astrazione di Android, e mi permette di fare il run di applicazioni native che altrimenti non potrei girare avendo un sistema operativo diverso. Sta nascendo, ed è un movimento che sta andando sempre più avanti, è immaturo, sta crescendo, ma prima o poi si rivoluzionerà e avremo effettivamente qualcosa che di libero e ci permetterà di fare un VNC server senza tanti problemi. Ma e l'hardware? Il problema più grande con l'hardware sono proprio i driver proprietari. La maggior parte dei sistemi operativi che posso flashare sopra un telefono Android riscontrano poi dei problemi di driver chiusi oppure non compatibili. Il PinePhone per questo è una grande iniziativa insieme all'Librem. Mi dà un sistema operativo che posso customizzare, metterci sopra Ubuntu Touch oppure il Plasma Mobile e fare effettivamente delle chiamate e poterlo utilizzare. Adesso se vado a mettere un Postmarket OS non posso utilizzarlo sulla maggior parte dei telefoni, sono su un Nokia N9000. No, vabbè. Maledetti cosi. Sì. Soprattutto maledetto Nokia 9000N. L'indistruttibile comunque. Vabbè, cosa facciamo? Mettiamo dell'altra musichina? Ma sì, dai. Mettiamo. E me la sento che sto giro la becchiamo questa rullante che sta per iniziare con... Oh, perfetto! Terza parte della trasmissione, come siamo bravi oggi, sì, precisi. Davvero, proprio sul pezzo, e quindi sì, cambiamoci verso la fine di questo episodio con la parte soporifera della puntata, quella che tutti aspettavano, e quest'oggi parliamo un pochino di che cos'è il peer review, cioè di quel meccanismo con il quale gli accademici si dicono quanto sono accademici tra di loro fondamentalmente, e un pochino come nasce, come si struttura e diciamo le magagne che si porta dietro. Come argomento non è del tutto casuale, perché nei giorni passati, in verità la settimana scorsa, c'era stato un articolo del Tascabile, quindi una rivista diciamo non proprio tecnologica, che dove c'era un articolo dove proprio di apologia di Schiab, insomma, questi sono matti, sono rivoluzionari, rubano i paper ad Harvard, alle grandi università brutte e cattive, e le ripubblicano. Tutto sommato la storia finisce qua, sono bravi, però mi ha fatto venire voglia di guardare un pochino meglio come, insomma, il meccanismo del peer review, come nasce, insomma, e quanto. Allora, inizialmente, fondamentalmente, la forma di autorevolezza scientifica veniva data fino alla metà del Novecento dalle società, quindi libere organizzazione di super elitarie di scienziati che si dicevano: noi siamo l'Accademia dei Chimici Medio Padani, e pubblicavano secondo la loro rivista. Però insomma era una forma veramente, insomma, di scienza di nicchia. Verso gli anni 60 e anni 70 inizia a venire fuori il ragionamento sul peer review, cioè sul fatto che fosse più giusto, più corretto e anche più efficace far valutare l'attendibilità o meno di una certa roba da un tuo pari, cioè o comunque sia da una persona che era interessata all'argomento. Quindi inizialmente il peer review ha uno spirito, a dire il vero, democratico, comunque sia abbastanza orizzontale, e ovviamente poi nella pratica è risultato essere, cioè non magari il meccanismo, però è stato uno strumento per un'ulteriore forma dei nostri carissimi monopoli. Cioè ci ritroviamo quindi con ad oggi nel 2020, perché siamo nel 2020, cazzarola, non nel 2019, ricordatelo. Me lo segno. Segnatelo, mi stavo dimenticando. L'ho sbagliato già abbastanza. Infatti, praticamente ora ci ritroviamo con 5 case editrici, la Elsevier è la più famosa, per capirci, che pubblicano circa il 70% dei paper scientifici annualmente, quindi hanno una sorta di quasi totalità. Questo meccanismo, cioè il peer review, fondamentalmente è ancora basato su una diciamo critica da un pari, quindi da una persona che abbia dimostrato capacità in quel campo e di interesse in cui il tizio, un altro tizio va o tizia va a provare a pubblicare un articolo. Però ha questa peculiarità, cioè che l'editore, quindi chi stampa effettivamente il giornale, è l'unico che sa tutte le carte, mentre gli altri vengono completamente diciamo messi da parte. Vengono messi da parte in più modi: economici, intellettuali, anche geografici in un certo senso, perché tutti questi editori sono americani. In pratica, spiegandosi meglio, i revisori degli articoli che vengono praticamente presentati a queste case editrici sono anonimi, quindi l'autore non sa da chi verrà giudicato, che apparentemente potrebbe essere una forma di tutela in un certo senso, però non è duplice, cioè a sua volta il revisore sa chi è l'autore, quindi volendo potrebbe anche comprensibilmente semplicemente essere stronzo. Oltretutto questo è un meccanismo piuttosto conservatore, perché fa sì che gli accademici usano le pubblicazioni quindi come strumento per crescere nella loro carriera. Se c'è un rischio molto alto, e a quanto pare anche piuttosto veritiero, che se faccio valutare il mio lavoro dal mio competitor, il mio competitor cercherà di un pochino tagliarmi le gambe. Ora, questo qui sono, diciamo, regole del gioco. Secondo me questa qui è la parte più noiosa, ma la parte secondo me più interessante è il fatto che questi benedettissimi editor hanno un potere proprio completo, totale, su e molto umano nel senso di soggettivo, sulla ricerca scientifica, quindi su ciò che viene considerato oggettivamente vero o inequivocabilmente inattaccabile perché pubblicato dal paper tal dei tali. Ci sono ad esempio diciamo anche qui secondo me le cose più interessanti vengono fuori dall'ambito medico, dove si tende più spesso a guardare il risultato come bianco o nero, cioè giusto e sbagliato, che la terapia tal dei tali funzioni o non funzioni, e voglio dire se sì oppure no. In questo ambito, ad esempio, c'è un movimento molto grande di medici in Inghilterra, secondo me molto interessante, che spingono per la pubblicazione dei negative trial, cioè le prove fatte secondo tutti i rigori, i crismi possibili, immaginabili, però che danno l'esito opposto a quello pensato. Cioè questo medicinale funzionerà, e magari l'esito finale è che non funzionerà. In genere questi paper non vengono pubblicati. Ci sono delle statistiche interessanti sugli antidepressivi, in cui circa 33 su 37 degli esiti positivi vengono pubblicati di media, mentre 30 di 32 di quelli negativi vengono scartati. Cioè Questo fa sì che poi le varie, che ne so, associazioni del farmaco o roba del genere dicano: aspetta, io qua ho 30 che mi dicono che funziona e ne ho solo due che dicono invece che non funziona, ma semplicemente perché gli altri che dicono che diciamo che il medicinale non ha avuto effetto non vengono pubblicati. Questo, ad esempio, ora può essere un meccanismo apparentemente contorto, però è legato al fatto che che gli editor hanno un potere totale di pubblicazione, e come ovviamente poi, cioè, ad oggi hanno un potere talmente grande che possono fare letteralmente quello che gli pare, però devono stare un pochino dietro, diciamo, proprio alla moda anche scientifica, perché ci sono degli argomenti che vanno più o meno di moda regolarmente e spingere più in certe direzioni. Direi, guarda, proprio l'ultimissima cosa, perché sennò tanto, anzi due cose. La prima è che fondamentalmente tutto questo, che forse è l'ultima ma forse la più importante, che tutto questo meccanismo del peer review si basa sul concetto di impact factor, che è una cosa che è stata fatta da un tipo che si occupava, se non sbaglio, di chimica, tale Garfield, che per creare tipo una roba che si chiama tipo scentometria, cioè che è una cosa proprio oscena il nome, cioè la valutazione critica in senso scientifico delle pubblicazioni scientifiche, cioè una cosa che fa male semplicemente a dirla, sì. E però questo impact factor si basa quindi su una scala fondamentalmente di quante cose che ho pubblicato io sono state citate da altri su tutte quelle che ho pubblicato per una certa rivista. Questo impact factor è un parametro per le riviste a livello internazionale, viene elargito come punteggio a tutte queste riviste da un ente unico che non pubblica chiaramente i suoi metodi di analisi dei dati. Questo fa sì che i vari giornali negozino, contrattino il loro impact factor con questo ente, che è un ente ovviamente americano, enorme, che sancisce una volta per tutte che la tua rivista è meglio della mia o della sua, eccetera eccetera, e questo viene fondamentalmente tramite negoziazioni nel suo piccolo, nell'ambito, ecco, e quindi lobbismo e comprarsi la roba e spingere più da un lato che da un altro. Io avrei concluso, volevo dire soltanto che ci sarà una seconda parte di questa roba di cui ho parlato, e rientrerà in un contesto probabilmente molto più ampio con gli altri colleghi e colleghi di IFDU, perché il 3 febbraio è lunedì, vero? Il 3 febbraio è lunedì, sì. Perché il 3 febbraio parliamo di copyright, quindi di diritti, di strategie alternative di condivisione. Prossima volta conduci te? No. E dai, no. Sei diventato più bravo di me. Io ho perso la memoria, non ricordo niente. No, sei anche arrivato dagli appuntamenti. Visto, ma perché mi sono ricordato, perché in verità non ho più voglia di parlarne. No, scherzo. Perché amplieremo il discorso in questa atmosfera allargata. Una puntata di quante ore? 6, 7, una maratona? 9 ore almeno. 9 ore di puntata, senza musica. Sì, ma sì. No, Felacuti in corsa. Scusa. Ma sempre lo stesso pezzo. Facciamo anche la cover band. Sì, tutto noi. Felacuti a cappella. A cappella, sì. Vabbè, che facciamo? Salutiamo. Dai, io sì. Salutiamo. Sì. Basta, finisce qua, non chiedeteci altro. No. Ci si sente lunedì prossimo forse. No, sicuramente. Sì, lunedì prossimo dai, forse. Il 3 febbraio proprio, cioè, sicuro, assolutamente. Il mondo. Invece lunedì prossimo non si sa. No, non lo sappiamo. Per non dare certezza agli ascoltatori. Ma pensiamo proprio di sì. Mai. Va bene. Ciao. Be safe.